in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. Cominciamo dalle prime pagine, e, come potete immaginare tutte dedicate alla strage che c'è stata ieri in Turchia ad Ankara, quindi il Corriere della Sera titola la strage dei 100 ragazzi e il commento è affidato a Franco Venturini, noi alla paura di una guerra mondiale. La Repubblica, Turchia, strage di pacifisti, entrambe queste prime pagine hanno una foto, in particolare una foto scelta da molti, la foto di un signore di circa 45-50 anni con i baffi, la vedrete sicuramente se sfogliate i giornali questa mattina, che abbraccia una donna, entrambi sono sporchi di sangue e intorno a loro ci sono cadaveri, feriti e persone che cercano di aiutare. In questo caso vi segnalo il titolo Turchia, strage di pacifisti e poi vi segnalo l'intervista al ministro degli esteri Gentiloni che trovate richiamata in prima pagina e poi a pagina 8, bombe e rivolte, c'è chi teme la pace in Medio Oriente. Il Corriere e il Sole 24 Ore titola in realtà su quella pratica che facciamo spesso regolarmente, che si chiama Rating 24, che serve a dare un voto alle riforme, quindi a capire come stanno andando, quante azioni vengono dopo gli annunci. E quindi riforme, attuazione salita al 63%, al palo i decreti della delega per la pubblica amministrazione. Trovate poi tutto da pagina 2 e pagina 3. Vi segnalo ovviamente anche sul Sole 24 Ore la cronaca della strage a Ankara, il bilancio, temo ancora provvisorio, di 97 morti e 400 feriti alla marcia pacifista, ma soprattutto vi segnalo il commento di Alberto Negri, perché di tutti quelli che ho letto questa mattina mi sembra il più incisivo, il più anche conciso e forse quello che ci dà un'idea più chiara di quello che sta succedendo in tutto il Medio Oriente in realtà, ma in Turchia in particolare. Allora vi leggo la parte che inizia in prima pagina, che è questa. Obiettivo destabilizzare, il titolo dell'articolo. Chi sono autori e mandanti dell'attentato più spaventoso mai compiuto in Turchia contro la società civile che ieri marciava per la pace con i curdi? A 20 giorni dalle elezioni c'è una strategia della tensione per destabilizzare la Turchia. L'articolo prosegue poi a pagina 22, vi leggo la seconda parte, ma davvero non è lunghissimo, ma come vi dicevo l'ho trovato il più sintetico di tutti quelli che ho letto e che ci aiuta appunto a capire questa complicatissima situazione in Turchia. Non potendo vincere la guerra ad Assad, complicata dall'intervento militare della Russia, Erdogan ha tentato di eliminare i curdi all'interno e si è alleato con le frange più nazionaliste. Erdogan, come ha dichiarato a Bruxelles durante la sua recente visita, qualifica ormai tutti i curdi come terroristi, siriani anti-ISIS e HDP compreso, per i legami con il PKK. HDP è il partito che interpreta le esigenze dei curdi, non è assolutamente un movimento di terroristi, ma appunto un partito che si è anche presentato alle elezioni ottenendo anche un buon risultato, le ultime, quelle che poi hanno portato allo scioglimento del governo e alle prossime elezioni anticipate che saranno il 1° di novembre. Quindi dicevamo il PKK, sperando che la deriva ipernazionalista lo salvi dalla sconfitta elettorale. L'Europa ha bisogno di lui per accogliere 2 milioni di migranti e non ha replicato a queste dichiarazioni, mentre per anni Francia e Germania avevano accusato Ankara di mancato rispetto degli standard democratici. Non c'è da stupirsi se ora arrivino gli attacchi kamikaze. La Turchia è vittima delle politiche spericolate di Erdogan, incoraggiate dall'Occidente, e ora la guerra di Siria si salda con il conflitto in Kurdistan. Per essere un paese membro della NATO, la Turchia di Erdogan in questo periodo aveva posto più problemi di quanti ne risolvesse. Gli americani hanno duramente negoziato per ottenere la base di Incirlik e i turchi insistono ancora per insediare in territorio siriano una fascia di sicurezza dai contorni incerti. Alla Turchia destabilizzata, bastione sempre più fragile dell'Alleanza Atlantica e tenuta sdegnosamente nell'anticamera dell'Unione Europea, oggi non resta che buttarsi nelle braccia della NATO e dell'Europa che, dopo aver snobbato a lungo Erdogan, lo corteggia perché è disponibile a tenersi in casa i profughi siriani. Una sorta di unione obbligata tra debolezze strategiche che hanno sbagliato le scelte nel quadrante medio orientale e oggi, nell'ora del terrore, fanno causa comune ma con obiettivi assai diversi. La Stampa, Turchia, la strage dei pacifisti, in questo caso il commento di Roberto Toscano, così Erdogan tradisce il suo paese. Il Messaggero ha un'apertura diversa, anche se poi c'è una fotonotizia con una fase del corteo in cui ancora non erano avvenuti, non si vedevano le conseguenze degli attentati, si vedono solo delle persone che marciano, tutti i ragazzi giovani, e sullo sfondo i primi fumi delle esplosioni, delle bombe dei kamikaze. Il titolo: Ankara shock, strage al corteo curdo, le vittime sono 97, oltre 400 i feriti, ma in realtà il titolo principale è questo: basta giochi sulla pelle di Roma. È un virgolettato tratto dall'intervista che Angelino Alfano ha concesso al Messaggero. Il ministro dell'Interno dice: da Marino, ormai sindaco dimissionario di Roma, minacce gravi, con il commissario salveremo il giubileo. E intanto, appunto, la cronaca l'avete sentita, che il sindaco ha ribadito: mi dimetto domani, cioè lunedì, però intanto impazza lo scontro con il PD, tra Marino, che del PD fa parte, ma comunque c'è uno scontro con il PD, e Renzi tra l'altro non vuole rinviare il voto previsto per la prossima primavera a Roma, che è una delle tre grandi città insieme a Milano e Napoli dove si voterà per il sindaco. C'è poi un approfondimento a pagina 2, non una vera e propria intervista ma una raccolta di supposte dichiarazioni di Marino, che dice, intitolato "Lo sfogo del chirurgo", "io trattato peggio di Provenzano, sono stati solo i partiti a fermarmi", quindi ancora nessuna traccia di autocritica, ma sempre nuove accuse di Marino a chi lo avrebbe dietro le quinte spodestato o costretto alle dimissioni. L'intervista di Angelino Alfano invece l'ha trovata a pagina 3. Avvenire apre sulla strage ad Ankara, gli assassini della pace, perché come dicevamo questo attentato gravissimo, il più grave della storia della Turchia, è avvenuto proprio all'interno di questo corteo per la pace. Subito sotto un titolo che lascia così, apre un pochino di speranza di fronte, affiancato a questa tragedia di Ankara: "I cavalieri del bene", il titolo dedicato alla cerimonia in cui ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha premiato i 18 italiani eroi del sociale. Il Giornale ha un titolo ancora diverso, tutto dedicato a Marino, a quella che viene definita la farsa capitale. Il PD travolto da Marino, con anche un accenno invece alle dichiarazioni di ieri di Berlusconi legate appunto alle elezioni, che dicevamo imminenti in primavera, nella primavera del 2016, a Milano, Roma e mai anche Napoli. Berlusconi ha detto: in queste due città servono sindaci manager. E poi in prima pagina una foto della strage di Ankara, ma di un quadro di Gustav Klimt. Forse avrete sentito, il sindaco di Venezia, Brugnaro, ha detto che, visto la situazione gravissima in cui versano i bilanci del comune, perché no, potrebbe vendere uno di questi preziosissimi quadri dell'artista austriaco. Il ministro Franceschini, ministro della cultura, ha subito replicato: spero che stia solo scherzando. In realtà Vittorio Sgarbi, con la sua solita verve polemica, dice: la buona idea di mettere all'asta Klimt e Chagall, che vengono definiti estranei e inutili, e quindi Sgarbi dice: ma sì, Venezia li venda. Trovate questo, appunto, il richiamo a pagina in copertina, e poi l'articolo intero a pagina 6 del Giornale. Anche Libero dedica la sua prima pagina alla vicenda di Roma, così descrivendola: Renzi ruba il voto ai romani. Questa appunto è l'idea, perché non si capisce ancora bene se con il commissariamento che seguirà le dimissioni di Ignazio Marino verranno confermate le elezioni in primavera. Non si sa, perché come avete visto alcuni giornali le danno per scontate, altri no. Renzi ruba il voto ai romani, quindi, mentre Marino tenta le ultime manovre per restare, questo è un altro possibile retroscena. Quindi da una parte dichiara: io lunedì assolutamente le mie dimissioni saranno esecutive, dall'altra c'è chi dice che invece starebbe ancora pensando a avvantaggiarsi di quella possibilità che gli dà 20 giorni per ritirare le dimissioni. Il capogruppo del PD in Senato, Zanda, annuncia che le elezioni verranno rinviate causa giubileo, ecco un po' la scusa che viene usata. Come commissario, secondo Libero, il più accreditato è Alfredo Savella, ex assessore alla legalità della Giunta Marino. Vi segnalo un gustoso articolo, sempre richiamato su Libero. Dico gustoso perché insomma conferma un po' questa attitudine di Marino a dare sempre la colpa agli altri di quello che gli succede, a non scusarsi per davvero mai, né fare mai autocritica. E Giacomo Amadori ripercorre tutte le indagini che hanno interessato Marino in qualche modo quando era responsabile dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, l'ISMET in Sicilia, e quando ancora prima fu coinvolto in una storia sempre di rimborsi per la quale l'università americana per la quale lavorava all'epoca di fatto lo licenziò. Ritrovate tutta questa storia, tra l'altro con le fonti principali che sono La Repubblica, quindi un giornale di centrosinistra, perciò insomma un po' un giornale dell'area a cui appartiene Marino, ripercorre tutta questa vicenda Giacomo Amadori, che inizia all'inizio degli anni 2000, la trovate a pagina 4. Ora però ci fermiamo un attimo per il meteo e una piccola pausa. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ci mancavano solo Il Manifesto e Il Fatto. Il Manifesto ovviamente titola sulla strage di Ankara con un titolo molto esplicito, cioè abbraccia la tesi che dietro agli attentati ci sia di fatto lo Stato turco, quindi il governo Erdogan in qualche modo. Il titolo è Strage di Stato. A pochi giorni dal voto, che sarà il 1 novembre, 97 morti, centinaia di feriti. È la terza strage contro la sinistra e i partiti curdi in 4 mesi. Il governo turco parla di 2 kamikaze e ordina la censura. Arrestato per un tweet il direttore del giornale Zaman, perché questa è stata, forse chi ha seguito la vicenda ieri un po' su Twitter l'ha visto, questa è stata una delle prime reazioni del governo turco, di vietare praticamente ai giornalisti turchi in Turchia di fare la cronaca di quello che stava succedendo. Il Fatto Quotidiano titola Renzi come Marino, le sue cene le pagava sempre il comune, quindi dopo gli scontri di Marino, di queste cene, sapete, nei ristoranti romani che lui attribuiva, definiva, catalogava come cene di rappresentanza, ma che poi venivano i commensali, i supposti commensali hanno smentito, da qui probabilmente le dimissioni, anche se sappiamo che è stato l'ultimo atto, è stata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso probabilmente. Bene, adesso Il Fatto si dedica invece a Renzi, se anche in questo caso, come è stato fatto per Marino, un giornalista del Fatto è andato a interpellare uno dei ristoratori da cui Renzi aveva cenato ai tempi in cui era sindaco di Firenze, veniva con moglie e amici, fatture e spese a spese di Palazzo Vecchio. Così trovate questo approfondimento, chiamiamolo così, a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Ma veniamo alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore, dove c'è un approfondimento sull'imminente debutto della Ferrari a Wall Street. Si quoterà Ferrari non in Italia ma appunto in America. Il titolo quindi dell'articolo di Andrea Malan, Ferrari a Wall Street in 10 giorni, un collocamento lampo del 10% del capitale per quasi 1 miliardo. Da domani il roadshow di Marchionne. Il roadshow è letteralmente appunto uno show sulla strada, è il termine che in finanza si usa per definire i giorni che precedono la quotazione, in cui in questo caso l'amministratore delegato di riferimento della Ferrari, cioè Marchionne, quindi del gruppo FCA, incontra i possibili investitori per sostanzialmente convincerli della bontà dell'investimento nelle azioni Ferrari. Il commento è sempre l'analisi, sempre di Andrea Malan, multipli vicini più al comparto del lusso che al settore auto. I multipli sono quelli con cui si decidono appunto le quotazioni, i valori, il prezzo, la forchetta, perché poi il vero prezzo dell'azione verrà deciso solo nel giorno in cui avviene il collocamento ed è il mercato a decidere qual è il prezzo iniziale dell'azione. C'è anche un ulteriore articolo, approfondimento con una visione proprio dagli Stati Uniti di Marco Valsania. Gli investitori USA scaldano i motori, in borsa i grandi fondi pronti a sottoscrivere l'offerta delle azioni del gruppo di Maranello. E poi giustamente un altro pezzo del quadro, ed è, ce lo racconta Paolo Bricco, ripercorrendo la storia della Ferrari, il valore di un mito diventato anche industria. Dallo storico accordo con Fiat del 1969, quando appunto il fondatore Enzo Ferrari stabilì questa partnership con Fiat, ai trionfi in Formula 1 degli anni 70, fino al successo industriale più recente. Ecco le tappe che hanno trasformato una piccola scuderia in icona del Made in Italy. Un altro debutto in borsa, questa volta alla borsa italiana, è quello di Poste, che domani, lunedì, appunto, debutterà a Piazza Affari. Scatta la maxi IPO, IPO sta per Initial Public Offering, cioè il debutto in borsa per l'appunto. Parte l'offerta pubblica di vendita di 453 milioni di azioni. Il 30% è rivolto ai risparmiatori ritail. retail. Abbiamo sentito, abbiamo letto prima il titolo dell'articolo di Marco Valsagna, perché appunto quando si va in borsa possono scegliere di comprare le azioni sia gli investitori retail, cioè i risparmiatori retail, quelli ai quali le azioni vengono offerte dai loro referenti nelle banche, oppure i grandi fondi o gli investitori istituzionali. E l'articolo di Laura Serafini ci spiega appunto come avverrà questo collocamento. E poi l'analisi di Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, una doppia sfida dell'Italia all'Italia. Vi segnalo sulla vicenda di Roma invece un articolo di Gianni Dragoni che trovate a pagina 15, che fa proprio, come sapete Gianni Dragoni, bravissimo a spulciare un po' i bilanci di qualsiasi tipo di azienda, in realtà lo fa spesso con le aziende, con le società di calcio, ma lo fa con qualsiasi tipo di azienda, questo lavoro certosino di andare a vedere tra le pieghe dei bilanci che cosa si nasconde, lo ha fatto anche, ha tentato di farlo anche con il bilancio del Comune di Roma. Roma, debito monster e poco trasparente, a Rutelli il record, poi Alemanno e Veltroni, e c'è anche proprio una piccola infografica che ci spiega la storia del debito di Roma, che pur con tutti gli sforzi che si possono fare per definirlo, nonostante tutti i controlli negli anni, sono emersi nuovi debiti fuori bilancio, la vera dimensione totale forse è ancora sconosciuta. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo, a proposito di debiti e scelte scellerate del nostro Stato, una storia che ci racconta Fabio Tonacci, la storia della sorta di ENA francese. Sapete, l'ENA è la famosa scuola in cui studiano, una sorta di università in cui studiano quelli che vogliono diventare funzionari pubblici dello Stato francese. Doveva essere una cosa, doveva sorgere, maturare, crescere una scuola analoga in Italia. La sede era la Reggia di Caserta, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, non riesce a far assumere i suoi allievi, scavalcati persino dal personale delle province. La beffa dei 9 super burocrati costati allo Stato finora 21 milioni. Dalle pagine interne invece della Stampa due belle storie. Una ce la racconta Tonia Mastrobuoni, un reportage da Wolfsburg, una delle principali sedi della Volkswagen in Germania, la città fabbrica ferita dallo scandalo. Però parlando con gli operai di questa fabbrica, che naturalmente mostrano da una parte disappunto per tutto quello che è successo con lo scandalo delle centraline truccate per falsificare i dati sulle emissioni di alcuni modelli di Volkswagen, e però anche un misto di orgoglio e di voglia di dimostrare che si può riconquistare la fiducia nel pubblico, appunto nella Volkswagen. Viaggio a Wolfsburg tra l'orgoglio tradito e lo spettro della cassa integrazione, perché sapete che oltre ai 6,3 miliardi che già accantonati per pagare multe o sostenere e far fronte alle varie class action che verranno fatte soprattutto negli Stati Uniti, probabilmente quella cifra non sarà sufficiente, e quindi i conti della Volkswagen andranno profondamente in crisi già quest'anno e probabilmente anche per gli anni a venire, e da qui appunto lo spettro della cassa integrazione. Un'altra storia raccontata dalla Stampa all'interno, la trovate a pagina 11, Federico Varese racconta come a Hong Kong si vende l'avorio illegale, una dei grandi traffici che coinvolgono stragi di animali, perché spesso agli elefanti vengono tolte le zanne e poi gli animali vengono lasciati agonizzanti. La legge vieta di commerciare zanne importate dopo il 1989, ma il business non cala. Contraffazioni e nessun controllo alimentano il mercato per clienti di tutto il mondo. Vi dicevo le 18 onorificenze che l'Avvenire ha messo in prima pagina, le racconta anche il Messaggero, che a sua volta le ha messe in prima pagina. Mattarella, 18 onorificenze agli eroi della quotidianità. Il Presidente premia chi si è distinto per altruismo, solidarietà e generosità. Dal soccorso ai migranti alla difesa della legalità, le storie di chi dà l'esempio. C'è appunto il racconto di questi 18 italiani, li trovate a pagina 12 del Messaggero, che è forse il giornale che dà insieme all'Avvenire più spazio a questa cerimonia che si è svolta ieri a Roma. Vi segnalo poi un'intervista a Luca Ricolfi su Libero. Tra l'altro Luca Ricolfi oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore pubblica anche un'analisi che si intitola Il sindacato e quel prestigio perduto. È un economista, un saggista, Libero lo ha intervistato, l'intervista però verte soprattutto sul tema dell'immigrazione. Il titolo: sinistra patologica sugli stranieri, piange per sentirsi superiore. Ricordo che uno dei libri più famosi di Luca Ricolfi recenti si intitolava proprio Perché siamo diciamo antipatici, la sinistra è il complesso dei migliori, quindi un po' un ritorno su questo tema, questa volta prendendo spunto dalle dichiarazioni, dall'atteggiamento della sinistra, del PD sull'immigrazione. Vi segnalo dall'Avvenire, che spesso ha, come spesso dico, degli articoli che si occupa di argomenti che magari vengono tralasciati da altri giornali. In questo caso il tema è quello della pena di morte, perché la giornata contro la pena capitale è stata l'occasione per svelare i numeri. Nel 2015 almeno 615 persone sono state uccise per reati connessi agli stupefacenti in 4 paesi. Teheran concentra l'89% del totale mondiale, quindi il titolo: la lotta alla droga arma il boia, crescono le esecuzioni per i traffici, Cina, Iran e Arabia le maglie nere. E naturalmente bisogna interrogarsi se appunto applicare la pena di morte pur per crimini così terribili come il traffico di droga, che poi è responsabile della morte di tantissime persone, se la pena di morte è uno strumento adatto. La risposta dell'Avvenire naturalmente è no. Un'ultima segnalazione prima di lasciarci ancora per gli aggiornamenti sul traffico, sempre dall'Avvenire: un'anticipazione sulla Buchmesse, la Frankfurt Buchmesse, la più importante fiera del libro in Europa, forse al mondo, che apre tra pochi giorni. Il titolo: e se ora il libro riparte, al via mercoledì a Francoforte la più grande fiera dell'editoria, fra traslochi e fusioni aziendali, per l'Italia il 2015 potrebbe essere davvero l'anno della svolta. Ora però ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali. Prima di passare ai supplementi culturali della domenica, un'ultima segnalazione dal Fatto Quotidiano, con Marco Franchi, che ha fatto un po' un'inchiesta. Parlavamo prima di Gianni Dragoni, che ha fatto le pulci al bilancio del Comune di Roma. Marco Franchi invece l'ha fatto con la società di Daniela Santanchè, che si chiama Visibilia, è una società attiva soprattutto nella raccolta pubblicitaria. È una società in rosso da parecchi anni, nuova perdita nei primi 6 mesi del 2015, con un debito di 5,7 milioni. Quindi la grande imprenditrice Santanchè, perché così spesso la rappresentante, una delle rappresentanti di punta del centrodestra si presenta in televisione, ha una società che appunto è in profondo rosso. Deficit, scusate, è sbagliato, non è 5,7 milioni come scritto nell'occhiello, ma 570 mila euro, che sono comunque, si aggiungono ai 2 milioni del 2014, ci spiega questo articolo del Fatto. Incerti gli obiettivi del piano 2015-2018. Ma veniamo alle pagine, appunto agli inserti culturali, e cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore. Il breviario di Gianfranco Ravasi in prima pagina oggi si intitola Colpevole. La citazione è questa: colpevole, trattasi sempre di altra persona. E il commento è: per chi tiene rubriche di riflessioni morali basate su un motto o su un'idea folgorante, alcuni autori sono come un vero e proprio vocabolario a cui attingere. Tra questi bisogna citare senza esitazione lo statunitense ottocentesco Ambrose Bierce. Non per nulla la sua opera più nota si intitola Il dizionario del diavolo. A lui appunto siamo ricorsi altre volte, lo facciamo adesso con questa sua lapidaria definizione del colpevole. È vero, fin da bambini, anche di fronte all'evidenza, non cessiamo di puntare l'indice contro un altro, accusandolo di ciò che in realtà è stato perpetrato da noi. C'è un aforismo orientale che ammonisce: ricordati che quando punti l'indice contro un altro, altre 3 dita della tua mano rimangono puntate contro di te. La grandezza di una persona si misura anche nell'onestà della confessione di un suo errore. Similmente dobbiamo essere sempre cauti e riflessivi prima di pronunciare contro un altro quel colpevole che nei film americani così serenamente è dichiarato dalle giurie processuali. E poi invece Memorandum, la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, dedicata all'incontro con due medici italiani che hanno studiato in Italia ma poi sono andati a lavorare in Inghilterra, all'ospedale di Bristol e il cielo di casa. E Roberto Napoletano appunto racconta di questi due cervelli in fuga della loro esperienza, di come comunque in teoria aspirerebbero a tornare in Italia, o comunque vorrebbero che in Italia ci fossero condizioni di lavoro simili a quelli che li hanno spinti ad andare in Inghilterra. E quindi conclude dicendo: d'ora in poi sarò ancora più deciso nel sostenere che non c'è nessuna fuga di cervelli dall'Italia, perché i ragazzi vanno dove credono di poter vivere e lavorare meglio. Il punto è che il paese più bello al mondo, cioè l'Italia, deve tornare a essere il luogo dove ciò accade. Questo mi dicono Luigi e Giulia, appunto i due chirurghi incontrati un po' per caso su un aereo da Roberto Napoletano, con il loro amore per l'ospedale di Bristol ma anche per il cielo di casa. La copertina in realtà realtà però è dedicata a un articolo di Renzo Piano, ecco la scuola che farei, ed è legato alla quarta edizione degli Stati Generali della Cultura che organizzati dal Sole 24 Ore, che si terranno il 29 di ottobre. Uno dei temi principali sarà appunto l'istruzione, ma anche il recupero delle periferie, che è un tema molto caro a Renzo Piano, su cui sta lavorando con tanti altri professionisti. Vi segnalo poi un articolo di Goffredo Fofi dedicato al premio Nobel per la letteratura assegnato tre giorni fa a Svetlana Alexievich. Viene definita una grande narratrice, protagonista del miglior giornalismo degli ultimi anni, verità del romanzo inchiesta, una scrittrice bielorussa, lo ricordiamo. Gli supplementi culturali, come sapete, la domenica sono ricchissimi, quindi un accenno anche alla lettura del Corriere della Sera. La copertina affidata come sempre a un artista questa settimana è Thomas Struth. E poi dall'interno vi segnalo un lungo articolo di Walter City dedicato a Pasolini: senza una scuola né eredi, Pasolini è rimasto solo. Gli sviluppi della letteratura italiana non sono stati in sintonia con la sua poetica. Da un certo punto di vista resiste Roberto Saviano, ma Saviano non ha la stessa fiducia folle nella lingua che aveva Pasolini. E poi un approfondimento su un fumettista. Sapete che anche in Italia, anche se è la Francia resta il paese dove i fumetti hanno il maggior successo, fumetti di ogni genere per bambini ma soprattutto per adulti, però anche in Italia c'è sempre più spazio per questo tipo di espressione artistica. Sono stati coniati anche degli altri nomi come graphic novel, romanzo grafico. In ogni caso, insomma, c'è molto movimento su questo fronte. La lettura spesso pubblica delle 2, 4, 6 pagine di appunto di graphic novels. Questa volta l'inviato a Gerusalemme Elisabetta Rosa Spina ci racconta le vignette di Shlomi Charka e Igal Dilmoni che sostengono la causa degli insediamenti dei coloni, dalla parte dei coloni a colpi di matita. Quindi questo tipo di fumetti. A proposito di fumetti, una bellissima copertina della Domenica Cult, il supplemento della Repubblica di Domenica, che è dedicato alla Pimpa. La Pimpa è sicuramente un fumetto per bambini, è quasi ipnotizzante per i bambini, forse per le sue forme molto semplici, un po' come poi è successo anche con Peppa Pig, ma Pimpa ha molti più anni di Peppa Pig, anche se non li dimostra, ne compie 40. La cagnolina Pois, ideata da Altan, nacque nel 1975. Con Cipputi e Italo mi arrabbio, dice appunto l'illustratore. Con lei mi rilasso. Loro sono la vita così com'è. Lei è la vita come sarebbe bello che fosse. Lei la Pimpa, mentre loro, naturalmente, Cipputi, il personaggio delle vignette, soprattutto politiche, di Altan, che la Repubblica pubblica spesso in prima pagina. Un articolo sempre dalla Repubblica di Jonathan Franzen, tradotto grazie all'accordo che Repubblica ha con il New York Times, Jonathan Franzen, di cui sta per uscire il nuovo libro. Questo però è un articolo dedicato a quella che lui definisce la social solitudine. Siamo tutti schiavi di un io idealizzato e virtuale che oscura il nostro io reale e ci allontana da ogni legame autentico. È un tema di cui tanti parlano in questi giorni, non solo in questi giorni, insomma, di come la tecnologia ci ha un po' alienati da noi stessi, forse dal mondo. Franzen lo fa in un modo molto letterario, fa le sue riflessioni. Sempre dalla Repubblica vi segnalo la consueta intervista a doppia pagina domenicale di Antonio Gnoli, con redatta dal bellissimo ritratto di Riccardo Mannelli. La serie si chiama Straparlando. Il protagonista di questa settimana è Bruno Segre, che oltre a essere stato parte del consiglio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, è stato per tantissimi anni collaboratore di Adriano Olivetti e ripercorre soprattutto gli anni del suo lavoro con il grande industriale. A 8 anni imparai a essere invisibile, solo Olivetti riuscì a guarirmi. E poi un tema che, non so, a me sta particolarmente a cuore, ed è quello del Ruanda, il genocidio che si consumò 20 anni fa in Ruanda. Forse non lo si ricorda mai abbastanza e non ci si chiede mai abbastanza come fu possibile un genocidio di quelle dimensioni in così breve tempo. Gabriele Romagnoli, nella sua, anche in questo caso, una consueta una serie di mondovisioni che appare ogni domenica sulla Repubblica, Certe notti interminabili all'Hotel Ruanda, all'albergo Mille Colline, a cui è stato dedicato anche un film qualche anno fa di Kigali, dove in un 1994 da incubo un direttore Hutu salvò dal massacro 700 Tutsi. Le memorie dolorosissime del passato si mescolano alle ansie del presente. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, purtroppo, ma sono tantissimi gli articoli interessanti di questa settimana, di questa domenica, come ogni domenica, come ogni giorno sui giornali, di cui quindi vi raccomando la lettura. Ancora appunto una buona domenica da Giulia Crivelli.